che ci va? Bene, mio marito. Ma cos'è questa radio, Antonio? Ora, segnale 9, radio 5, perfetto. Allora, funziona bene ancora, là. Meglio così. Ehi, segnale 9, sto provando, là. Che da tanto che non l'accendevo. Antonio. E già esce bene un bell'apparecchio, il 2009. Esce benissimo. Mi sto usando il Saturneco, sto usando. Ehi, va bene anche quello lì. Compra amplificato, sì. Sì, compra amplificato. Con Salerta. Ah, ah. Io sto usando la Salerta Pro. Con la plastica. Ci esce bene a Puglia. Cosa vuoi di più, Lucano? A Puglia che è perfetto. C'è la bella applicazione, tutto. Fa piacere, va. Più di 2 anni che non la accendevo, che. Ma funziona ancora, va. Dopo tutto questo, se ci avessi funziona ancora. Bisogna farli girare queste barattine, sennò io lo sai che. Un po' le palle, specialmente i trimmer e poi il resto, capito? E a chi non viene più gana, insomma, cosa vuoi fare? Fai non finire gana e basta, capito? Così che non mi fai a farli girare tutti. Poi, cazzo, che ne sono tre i rocchi attaccati, cazzo. Ma l'accende 7-1 e basta, cazzo. Ma oggi ho voluto accendere questo. Perché era da tanto che non lo accendevo, capito? E volevo vedere un po' se andavo ancora, là. E ha voglia che va. È perfetto, esce benissimo. Ehi, ehi. Vabbè, un passaggio in FM ti faccio, Antonio. No, va là. Radio 5, chiara, perfetta. Anche Batimo, non è che ho avuto l'NE 555, che ne ha lavorato la Taino, c'ha la mano di spray arancione grande, e poi l'avevo venduto. Sì. Mi sono tenuto il Saturneco, e poi c'è un qua il 4000, e il 2009 l'ho prestato a un amico. E qui c'è quello mio gatto famoso, mezz'ora, dice che si può andare a fermare. Thank you. devi stare con l'alimentatore agganciato. Invece così direttamente lui vede, sei più tranquillo. E via, vabbè. Canale 10 27075, qualcuno non ascoltò? Canale 10 27075, qualcuno non ascoltò? Canale 10 27075, qualcuno non ascoltò?